Sospese da scuola. A scuola erano tutti perplessi dalla signorina Wilder. I maschi, come era prevedibile, avevano cominciato fin dal primo giorno a tirare la corda per vedere fin dove potevano arrivare senza beccarsi una punizione, e non si capiva perché lei lasciasse fare senza intervenire e metterli a posto una volta per tutte. All'inizio si erano limitati ad agitarsi sulle panche e a pestare i piedi, poi avevano cominciato a sbattere libri e lavagnette di qua e di là. La maestra non dava cenno di accorgersene finché il baccano non diventava fastidioso. Poi però, invece di sgridare i più indisciplinati, sorrideva a tutta la classe e chiedeva gentilmente di fare silenzio. «So che non vi accorgete di disturbare i vostri compagni», diceva. Loro non sapevano come reagire a quell'atteggiamento, ma appena lei si girava verso la lavagna, il baccano aumentava di nuovo e qualcuno si metteva addirittura a bisbigliare. Ogni giorno la signorina Wilder chiedeva più e più volte a tutta la classe di fare silenzio per cortesia. Un pomeriggio picchiò il righello sulla cattedra perché stessero a sentire e prese a dire che tutti in quella scuola certamente volevano comportarsi bene. Lei del resto non credeva si dovessero punire i bambini. L'obbedienza doveva essere frutto dell'affetto, non della paura. E infatti lei voleva bene a tutti loro e certo anche loro volevano bene a lei. Il discorso era così strano che mise a disagio perfino le ragazze grandi. Gli uccellini nel nido vanno sempre tutti d'accordo, concluse con un gran sorriso. Laura e Aida erano così imbarazzate che non sapevano dove guardare. E poi quelle parole dimostravano che la signorina Wilder non sapeva un bel nulla degli uccellini nel nido. La signorina Wilder sorrideva sempre, anche quando gli occhi rivelavano preoccupazione o tensione. Il suo sorriso pareva sincero solo quando guardava Nellie Oleson. Sembrava quasi che in lei sentisse un appoggio. È un'ipocrita, bisbigliò un giorno Minnie durante l'intervallo. Erano tutte alla finestra a guardare i ragazzi che giocavano a palle in cortile. La maestra e Nellie chiacchieravano accanto alla stufa. Alla finestra faceva più freddo, ma loro preferivano stare lì. Non credo, no. Secondo me non è esattamente così, disse Mary Power. Tu che dici, Laura? No, forse no, disse Laura. Non proprio. È che non ha molto buon senso, però sa tutto quello che c'è nei libri, deve essere molto colta. Oh, sì, questo sì, disse Mary Power. Però si può essere colti e avere buon senso lo stesso, no? Voglio vedere che cosa succederà quando verranno a scuola i ragazzi grandi, se già non riesce a tenere la disciplina coi piccoli. A quelle parole gli occhi di Minnie si illuminarono di divertimento e Aida scoppiò a ridere. Aida era sempre pronta a ridere di tutto, qualunque cosa succedesse. Ma Mary Power fece la faccia seria. Anche Laura era preoccupata. Per carità, non devono esserci problemi di sorta a scuola. Deve filare tutto liscio. Voleva prendere l'abilitazione e non dovevano esserci intoppi. Ora che abitavano in paese, Laura e Carrie tornavano a casa per pranzo. Mamma preparava sempre qualcosa di caldo, perché era meglio così, anche se non sembrava che ne traesse grande giovamento. Era sempre esile, magra e sempre stanca. A volte aveva tanto mal di testa da non ricordare le lezioni. Laura la aiutava a fare i compiti, ma succedeva che Carrie a scuola dimenticasse quello che la mattina, appena sveglia, ricordava benissimo. I Danelli invece si portavano ancora il pranzo da casa, e anche la maestra. Si sedevano a mangiare al calduccio accanto alla stufa, ma quando le altre ragazze tornavano a scuola, Aida le raggiungeva subito. Nellie, invece, di solito, restava a chiacchierare con la signorina Wilder. «Uno di questi giorni farò un giro su quel bel calesse con quei due magnifici Morgan», diceva alle altre ragazze con un sorrisetto malizioso. «Vedrete?» Loro non dubitavano che ci sarebbe riuscita. Un giorno, tornando a scuola dopo pranzo, Laura portò Carrie vicino alla stufa perché si togliesse il cappotto al caldo. La signorina Wilder stava parlando con Nellie, tutta infervorata. «Il consiglio scolastico!» stava esclamando. Poi la vide e tacque. «È ora che suoni la campanella!» disse subito. Si alzò e passò accanto a Laura senza nemmeno rivolgere uno sguardo. Laura pensò che avesse qualche motivo di disaccordo col consiglio e che nel vederla si fosse ricordata che suo padre ne faceva parte. Quel pomeriggio capitò di nuovo che Carrie facesse tre errori di ortografia. Laura la osservava e sentiva una gran pena. Carrie era pallida e abbacchiata. Si vedeva che ce la metteva tutta, ma doveva avere un gran mal di testa. Però anche Mammy Bursley aveva fatto qualche errore. Per Carrie sarebbe stata una piccola consolazione. Poi la signorina Wilder chiuse il libro dicendo di essere delusa e addolorata. Torna a posto, Mammy, e la prossima volta fatti trovare più preparata. Carrie, vai alla lavagna. Voglio che tu scriva le parole carrareccia separatamente e esasperazione 50 volte ciascuna, disse con uno strano tono di trionfo. Laura cercò di restare calma, ma non ci riuscì, era furibonda. Obbligare Carrie a stare lì davanti a tutta la classe a scrivere le parole che aveva sbagliato era una punizione crudele e ingiusta. Anche Mamie aveva fatto degli errori, ma la maestra l'aveva rimandata a posto e puniva solo Carrie. Doveva pur saperlo che Carrie faceva quello che poteva e che era tanto debole. Che cattiveria nei suoi confronti, che ingiustizia! Ma poiché non poteva far nulla, se ne restò in silenzio, furibonda. Carrie andò mogia mogia alla lavagna, tremava e cercava di ricacciare indietro le lacrime. Riuscì a non piangere e si mise a scrivere lentamente, una riga, un'altra ancora. Era sempre più pallida, ma si sforzava di andare avanti e a un tratto si fece grigia in faccia e si aggrappò al portagessi. Laura alzò la mano, poi senza aspettare il permesso di parlare, balzò in piedi. «Scusi, signorina Wilder, Carrie sta per svenire!» La maestra si voltò di scatto a guardare Carrie. «Carrie, vai a sederti!» disse subito. La fronte di Carrie era imperlata di sudore, ma il peggio sembrava passato. Non era più terrea come poco prima. «Mettiti al primo banco!» disse la maestra. Carrie riuscì ad arrivarci. Poi la maestra aggiunse: «Dal momento che non vuoi che Carrie scriva le parole che ha sbagliato sulla lavagna, Laura, lo farai tu per lei!» La classe piombò in un silenzio assoluto. Tutti guardavano Laura. Era un affronto per lei, una ragazza grande, dover andare alla lavagna per punizione. Anche la signorina Wilder la guardava. Laura ricambiò lo sguardo. Poi andò alla lavagna, prese il gesso e cominciò a scrivere. Si sentiva la faccia in fiamme, ma dopo qualche istante capì che nessuno in classe rideva di lei. Scriveva in fretta, una parola dopo l'altra, tutte uguali, in colonna. A un certo punto sentì psst, psst alle sue spalle, poi di nuovo psst, psst. Nell'aula era tornato il baccano di sempre. Dopo un po' sentì bisbigliare: «Laura, ehi!» Era Charlie. «Non farlo!» le bisbigliò. «Ribellati! Dille che non lo fai! Siamo tutti dalla tua parte!» Laura si sentì scaldare il cuore, ma se c'era una cosa che non voleva, era creare guai a scuola. Sorrise, fece una smorfia e scosse la testa. Charlie tacque deluso. La signorina Wilder le scoccò un'occhiata furibonda e Laura capì che aveva visto e sentito tutto. Si voltò verso la lavagna e riprese a scrivere. La signorina Wilder non disse nulla né a lei né a Charlie. «Non ha nessun diritto di prendersela con me», pensava Laura risentita. «Dovrebbe ringraziarmi invece che l'aiuto a tenere l'ordine». Quel pomeriggio, tornando a casa, Charlie e i suoi due amici del cuore, Clarence e Alfred, seguirono Laura, che era poco più avanti, con Mary Power e Minnie. «Domani gliela faccio vedere io a quella strega», disse Clarence a voce abbastanza alta perché Laura sentisse. «Le metto uno spillo sulla sedia». «E io prima le rompo il righello, così se scopre che sei stato tu non può dartele», disse Charlie. Laura si fermò e tornò indietro di qualche passo. «Per piacere, ragazzi, non fate niente del genere. Ve lo chiedo per favore». «Perché? Sarà da ridere. E lei non ci farà nulla», disse Charlie. «Cosa c'è da ridere?» disse Laura. «Non è il modo di trattare una signora, anche se non vi è simpatica. Non voglio che facciate niente». «Vabbè», fece Clarence, non molto convinto. «D'accordo, non faccio niente». «Va bene, stai tranquilla», dissero Charlie e Alfred. Non che fossero d'accordo, ma avrebbero rispettato la promessa, Laura ne era certa. Quella sera, mentre faceva i compiti, Laura osservò: «La signorina Wilder ce l'ha con Carrie e con me, non capisco perché». Mamma alzò gli occhi dal lavoro a maglia. «Sono sicura che se ci pensi bene lo sai il perché». Papà la guardò da sopra il giornale. «Vedi di non darle motivo di avercela con te e ti accorgerai che non è così». «Non le do nessun motivo, pa», disse Laura risolutamente. Ma forse si lascia influenzare da Nellie Olson, aggiunse, tornando al suo libro. Dentro di sé pensava, sì, sta troppo ad ascoltare Nellie Olson. L'indomani, Carrie e Laura arrivarono a scuola con largo anticipo. La maestra e Nellie Olson erano già lì, sedute accanto alla stufa. Non c'era nessun altro. Laura salutò e mentre si avvicinava, l'orlo della gonna le si impigliò nel bordo smangiato del secchio del carbone. Oh, accidenti! Disse chinandosi a liberarlo. Ti sei strappata il vestito, Laura? Chiese la signorina Wilder con una strana voce acida. Perché non ci fai avere un secchio nuovo, visto che tuo padre è nel consiglio e può fare tutto quello che ti pare? Laura la guardò esterrefatta. Ma non è vero! Non posso fare proprio niente io, esclamò. Comunque, se vuole un secchio nuovo, glielo daranno di sicuro. Grazie davvero, disse la signorina Wilder. Perché le aveva parlato così? Laura non riusciva a capirlo. Nellie fingeva di leggere un libro, ma dal sorrisetto all'angolo della bocca si capiva che aveva ascoltato tutto. Quel giorno in classe ci fu più agitazione del solito, ma i ragazzi mantennero la parola e non fecero nulla. Come sempre, non avevano studiato nulla e non sapevano rispondere a nessuna domanda. La maestra ne fu così contrariata che a Laura fece quasi pena. Il pomeriggio, però, cominciò meglio del solito. I ragazzi sembravano più tranquilli. Laura stava studiando geografia. Alzando gli occhi per ripetere tra sé a memoria le esportazioni del Brasile, vide Carrie e Mamie Bursley chine sul sussidiario. Le due testoline vicine, gli occhi sul libro, muovevano tutte e due silenziosamente le labbra, ripetendo tra sé l'ortografia delle parole. Non si erano accorte che nella concentrazione si erano messe a dondolare il busto avanti e indietro e che la panca dondolava leggermente con loro. Dovevano essersi allentati i bulloni che la tenevano fissata al pavimento, ma poiché quel dondolio non faceva rumore, Laura non se ne preoccupò e riprese a pensare ai porti dell'Atlantico. A un tratto la signorina Wilder disse seccamente: Carrie e Mamie, mettetevi il libro e se volete far dondolare quella panca, fatelo davvero. Laura alzò la testa. Carrie aveva spalancato gli occhi e la bocca dalla sorpresa, era sbiancata per lo sgomento, ma ora stava facendosi di porpora per l'imbarazzo. Senza fiatare, le due bambine misero via il libro e ripresero a far dondolare la panca piano piano. Ci vuole silenzio per poter studiare, disse la signorina Wilder suavemente. D'ora in avanti chi fa azioni di disturbo continuerà fino a non poterne più. Mamie non sembrava molto preoccupata, ma Carrie era sul punto di scoppiare in lacrime. Continuate finché non vi dico di smettere, aggiunse la signorina Wilder con lo stesso strano tono trionfante del giorno prima, tornando a voltarsi verso la lavagna, dove stava spiegando un problema di matematica ai ragazzi della classe intermedia, ai i quali non la stavano a sentire. Laura cercò di tornare al Brasile, ma non riusciva a concentrarsi. Un momento dopo, Mamie scosse la testa, si alzò e coraggiosamente andò a sedersi in un altro banco. Carrie restò dov'era, ma la panca era troppo pesante ora perché una bambina così minuta, seduta a un'estremità, riuscisse a farla dondolare da sola, e poco dopo il dondolio cessò. Continua, Carrie, disse la signorina Wilder, e a Mamie non disse nulla. Laura sentì il sangue montarle alla testa, non cercò neppure di controllare l'ondata di furore che l'aveva presa. Odiava la signorina Wilder con tutte le sue forze, la odiava perché era ingiusta e crudele. Mamie si era sottratta alla punizione e lei non le aveva detto nulla, invece se la prendeva con Carrie che non era abbastanza forte da far dondolare quella panca da sola. Ma si morse le labbra e non si mosse. Pensava che Carrie sarebbe stata sollevata presto da quel compito gravoso. Carrie era bianca come un cencio. Faceva del suo meglio, ma la panca era troppo pesante. Il dondolio andava riducendosi e alla fine, anche mettendocela tutta, non riuscì più a muoverla. Più forte, Carrie! Falla dondolare più forte! Disse la signorina Wilder. Volevi far dondolare quella panca, no? E allora fallo! Laura era saltata in piedi, l'aveva presa un furore incontrollabile al quale non cercava nemmeno di resistere. Signorina Wilder, urlò, se vuole che quella panca dondoli più forte, gliela faccio dondolare io. La signorina Wilder colse l'occasione. Benissimo, non c'è bisogno che ti porti i libri. Mettiti lì e dondola. Laura percorse il corridoio tra le file come una furia. Bisbigliò a Carrie. Stai ferma, riposati. Poi piantò i piedi saldamente a terra e cominciò a dondolare. Non per niente papà diceva che era forte come un cavallino normanno. Tump! Fecero le gambe di dietro della panca sul pavimento. Tump! Quelle davanti. I bulloni si erano allentati tutti. Tump! Tump! Tump! Tump! Laura dondolava selvaggiamente e Carrie se ne stava ferma e quieta. Neppure tutto quel movimento, però, riuscì a far sbollire l'ira di Laura. Era sempre più arrabbiata e dondolava la panca sempre più forte. Tump, tump, tump, tump. Nessuno poteva più concentrarsi sui libri. Tump, tump, tump, tump. La signorina Wilder non riusciva quasi più a sentire la propria voce. Gridò che cominciava la lezione di lettura della terza. Tump, tump, tump, tump. Nessuno riusciva a leggere, né tantomeno a farsi sentire. Tump, tump, tump, tump, tump. Laura! Gridò la signorina Wilder. Tu e Carrie siete sospese per il resto della giornata. Tump! Rispose la panca. Poi cadde un silenzio di tomba. Sapevano tutti che cosa vuol dire essere sospesi da scuola, ma nessuno l'aveva mai visto succedere. Era peggio che essere picchiati con la bacchetta. C'era solo una punizione peggiore della sospensione: l'espulsione dalla scuola. Laura teneva la testa dritta, ma non vedeva niente. Raccolse i libri di Carrie, che se ne stava lì tutta tremante, poi andò a prendere i propri. Nella stanza non volava una mosca. Per dimostrarle il loro appoggio e non metterla in imbarazzo, Mary Power e Minnie non la guardavano. Anche Nellie Olleson teneva gli occhi fissi sul libro, ma un sorrisetto le aleggiava all'angolo della bocca. Aida invece le lanciò un'occhiata disperata. Carrie aveva aperto la porta. Laura uscì e se la richiuse alle spalle. Si misero il cappotto nell'ingresso. Intorno alla scuola tutto sembrava strano e diverso dal solito, perché non c'era nessuno a quell'ora. Non c'era nessuno, nemmeno sulla strada che dalla scuola andava in paese. Erano circa le 2 del pomeriggio e a casa non le aspettavano. Oh, Laura, e adesso cosa facciamo? Disse Carrie spaventata. Andiamo a casa, rispose Laura. Erano già sulla strada di casa e la scuola dietro di loro era già diventata piccola per la distanza. Ma cosa diranno, pa e ma? Disse Carrie con la voce che le tremava. Lo sentiremo, disse Laura. Non se la prenderanno con te, stai tranquilla. Non è colpa tua. È colpa mia perché ho fatto dondolare quella panca così forte e ne sono proprio contenta, aggiunse. Lo rifarei da capo. Carrie non si lasciò consolare da quelle parole. Come si fa a stare tranquilli quando si ha paura di tornare a casa? Oh, Laura, mormorò e le si aggrappò al braccio, tenendosi per mano. Tornarono a casa senza dire altro. Attraversarono Main Street e si avvicinarono alla porta. Fu Laura ad aprirla. Papà si voltò a guardarle dalla scrivania dove era seduto a scrivere. Mamma si alzò dal dondolo dove stava lavorando a maglia e un gomitolo cadde sul pavimento. Kitty, la gattina, si mise subito a rincorrerlo, tutta allegra. Ma che succede? Esclamò mamma. Ragazze, che c'è? Carrie, ti senti male? Siamo state sospese, disse Laura. Mamma si lasciò cadere sulla sedia e guardò papà, senza sapere cosa dire. Dopo un minuto di orribile silenzio, papà chiese con voce severa: Perché? È stata colpa mia, pa, disse Carrie subito. Non l'ho fatto apposta, ma è stata colpa mia. Siamo state Mammy e io a cominciare. No, è colpa mia, intervenne Laura e spiegò come erano andate le cose. Quando ebbe finito ci fu di nuovo un momento di silenzio orribile. Poi papà disse severamente: Domani mattina tornate a scuola e fate come se non fosse successo nulla. La signorina Wilder avrà anche avuto torto, ma è la maestra e io non posso pensare che le mie figliole creino problemi a scuola. Sì, pa, dissero tutte e due. Adesso cambiatevi e mettetevi a fare i compiti, disse mamma. Domani mattina andrete a scuola, come ha detto vostro padre, e vedrete che tutto si risolverà. Visita del consiglio scolastico. L'indomani, quando entrarono in classe, Laura ebbe l'impressione che Nellie Olleson fosse stupita e delusa. Forse si aspettava che non tornassero più a scuola. Oh, come sono contenta che sei tornata, disse Mary Power. Non smetterai di venire a scuola, vero? Anche se è così cattiva con te, disse Aida abbracciandola. Non smetterei per nessuna ragione al mondo, disse Laura. Io voglio continuare a studiare. Ma se ti espellono da scuola non potrai farlo, intervenne Nellie. Non c'è nessuna ragione perché mi espellano. Non ho fatto niente, disse Laura, e non farò niente. Tanto non ti espellerebbero comunque, no? Perché tuo padre è nel consiglio, disse Nelly. Perché non la pianti con questa storia che mio padre è nel consiglio? Esplose Laura. Si può sapere perché? In quella sentirono suonare la campanella ed entrarono in classe. Carrie si sforzava di fare tutto al meglio per obbedienza a papà e anche Laura badava a comportarsi in modo irreprensibile, ma dentro di sé odiava la signorina Wilder. Era ancora piena di rabbia e di risentimento nei suoi confronti per come era stata crudele e ingiusta con Carrie e voleva fargliela pagare. Era anche lei come quel bicchiere e quel piatto del Vangelo, puliti solo di fuori. Si comportava bene, ma non faceva nessuno sforzo per essere davvero buona anche dentro. La classe non era mai stata così rumorosa e indisciplinata. Si sentiva un gran pesticciare di piedi e sbattere di libri e bisbigliare tra i banchi. Solo le ragazze grandi e Carrie se ne stavano composte e in perfetto silenzio. Come la maestra si girava verso la lavagna, alle sue spalle montava il baccano. A un tratto Charlie cacciò un urlo e balzò in piedi. Si teneva le mani premute sul sedere. Uno spillo! Si mise a urlare. C'era uno spillo sulla mia panca! Brandiva uno spillo tutto storto per farlo vedere alla signorina Wilder. Lei strinse le labbra e questa volta non sorrideva. Vieni qui, Charlie! Disse in tono seccato. Charlie fece l'occhiolino alla classe e andò zoppicando alla cattedra. Allunga la mano, disse la signorina Wilder, tastando sotto il piano della cattedra per cercare il righello. Poi, non trovandolo, si chinò a guardare. Il righello non c'era. Qualcuno ha visto il mio righello? Chiese. Non si alzò nessuna mano. La signorina Wilder si fece rossa di rabbia. Vai nell'angolo, faccia al muro, disse a Charlie. Charlie andò a mettersi nell'angolo, massaggiandosi il di dietro come se gli facesse ancora male per la puntura. Clarice e Alfred scoppiarono a ridere forte. La maestra Wilder si voltò subito a guardarli e altrettanto velocemente Charlie si girò verso la classe e fece una boccaccia. Tutti i maschi scoppiarono a ridere, ma Charlie era stato così veloce che quando la maestra si voltò per vedere che cosa aveva scatenato l'ilarità, lui se ne stava immobile contro il muro. Andarono avanti così per un pezzo. Ogni volta che la maestra si girava verso la classe, anche Charlie si girava e faceva boccacce, e tutti scoppiavano a ridere. Le uniche che riuscivano a restare perfettamente serie erano Laura e Carrie. Perfino le altre ragazze grandi tossivano e si premevano il fazzoletto sulla bocca come se stessero per soffocare. La signorina Wilder picchiò sulla cattedra. Siccome non aveva il righello, dovette picchiare con le nocche, ma non riuscì a riportare l'ordine. Non poteva stare a guardare Charlie tutto il tempo e non appena si girava lui riprendeva a fare boccacce e la classe rideva. In un certo senso i ragazzi avevano mantenuto la promessa fatta a Laura, ma riuscivano a essere ancora più indisciplinati e rumorosi che se avessero fatto quello che avevano minacciato. A Laura, comunque, ora non importava più, anzi, era contenta. Quando Clarence scivolò giù dal suo posto e prese a strisciare i gattoni tra i banchi, non poté fare a meno di sorridergli. Durante l'intervallo, però, restò in classe. Era sicura che i ragazzi stessero tramando qualcosa e non voleva sentire. Dopo l'intervallo, il disordine aumentò ancora. Nella parte della classe dove erano seduti i maschi, continuavano a volare palline e freccette di carta. Le bambine parlottavano e si passavano foglietti, e quando la signorina Wilder si mise a scrivere sulla lavagna, Clarence si buttò gattoni nel corridoio tra i banchi. Alfred fece lo stesso e Charlie, leggero e rapido come un gatto, fece qualche passo di corsa saltando la cavallina sulla loro schiena. Poi tutti e tre tornarono a posto e guardarono Laura. Lei sorrise. Che cos'hai da ridere, Laura? Chiese la signorina Wilder brusca voltandosi verso la classe. Perché? Stavo ridendo, disse Laura alzando gli occhi dal libro con aria stupita. I ragazzi al loro posto sembravano immersi nella lettura. Bada a quello che fai, disse la signorina Wilder guardandola fissa per un momento. Poi si girò verso la lavagna e tutti in classe, Laura e Carrie escluse, scoppiarono a ridere. Per tutto il resto della mattinata Laura tenne gli occhi fissi sul libro. Solo di tanto in tanto lanciava un'occhiata a Carrie. Una volta Carrie si voltò a guardarla. Laura si portò un dito alle labbra e Carrie tornò a chinarsi sul libro anche lei. Alla fine La confusione e il rumore che scoppiavano appena si girava verso la lavagna fecero perdere la calma alla signorina Wilder, che a mezzogiorno li lasciò andare mezz'ora prima dell'orario consueto. A casa, Laura e Carrie dovettero spiegare di nuovo come mai erano arrivate in anticipo. Raccontarono quello che succedeva a scuola e papà si fece serio, ma disse solo: «Voi due badate a comportarvi come si deve, non ve lo dimenticate». Non lo dimenticarono. L'indomani il disordine si aggravò. Lo scherno nei confronti della maestra era quasi palpabile. Laura era sgomenta per quello che aveva provocato. Erano bastati due sorrisi di incoraggiamento a scatenare la classe. Ma non faceva niente per impedire che le cose degenerassero. Sentiva che non avrebbe mai perdonato la signorina Wilder per la sua ingiustizia nei confronti di Carrie. Non voleva nemmeno provarci. Ora che nessuno mostrava rispetto per la maestra e tutti cercavano di irritarla, o quantomeno ridevano di lei, anche Nelly cambiò atteggiamento. Era sempre la sua cocca, ma riferiva alle altre ragazze quello che diceva e anche lei la scherniva. Un giorno raccontò che il nome di battesimo della signorina Wilder era Eliza Jane. È un segreto, me lo ha detto tempo fa, ma non vuole che si sappia in giro. E perché? Disse Aida. È un bel nome, cos'ha che non va? Te lo dico io perché, disse Nelly. Quando era piccola e abitava nello stato di New York, una volta è arrivata una bambina nuova a scuola. L'hanno messa nel banco con lei e Nelly abbassò la voce e se le tirò vicino. E lei si è presa ai pidocchi. Fecero tutte un balzo indietro e Mary Power esclamò: «Nelly, non si raccontano queste cose!» «Non le racconterei se Aida non me l'avesse chiesto.» «Nelly, io non te l'ho chiesto di certo!» esclamò Aida. «Sì, invece!» «Comunque», continuò l'altra, «non è finita lì. Sua mamma mandò un biglietto alla maestra e la maestra cacciò la bambina nuova dalla scuola, così tutti vennero a sapere che cosa era successo. La signorina Wilder dovette restare a casa una mattinata intera perché sua mamma le levasse i pidocchi. Si disperava e non voleva più andare a scuola. Aveva talmente paura che il giorno dopo arrivò in ritardo, tanto camminava piano, e quel giorno, nell'intervallo, tutti i compagni le fecero cerchio intorno e cominciarono a gridare «Eliza Jane la pidocchiosa!». Da allora il suo nome non lo sopporta, perché finché rimase in quella scuola la chiamarono tutti sempre «Eliza Jane la pidocchiosa». Lo disse in modo così buffo che scoppiarono tutti a ridere, pur vergognandosi un po'. Ma più tardi loro quattro si dissero che mai e poi mai avrebbero raccontato qualcosa a Nelly, perché non ci si poteva fidare di lei. Tali erano ormai il baccano e il disordine che quella non sembrava più una scuola. Appena la signorina Wilder suonava la campanella, tutti entravano di corsa, contenti di fare il diavolo a quattro. Lei non poteva tenerli d'occhio tutti contemporaneamente e non riusciva mai a cogliere nessuno in fallo. Libri e lavagnette venivano sbattuti sui banchi apposta per fare rumore. Volavano palline di carta dappertutto. Qui e là si sentiva fischiare e c'era sempre qualcuno in piedi tra i banchi. Erano tutti contro la signorina Wilder. La facevano ammattire, si divertivano un mondo. Laura era spaventata da quello che stava succedendo. Ormai sembrava impossibile impedirlo. In classe non riusciva più a studiare ed era preoccupata di non farcela prendere l'abilitazione. E se Mary avesse dovuto lasciare l'università? Tutto perché lei aveva sorriso due volte a dei ragazzini indisciplinati? Sapeva di aver fatto male a sorridere, eppure non se ne pentiva davvero. Non aveva perdonato la signorina Wilder, anzi, sentiva ancora montarle dentro la collera ogni volta che pensava a come aveva trattato Carrie.